Di Pietro si appella a Napolitano, non firmi la legge sulle intercettazioni. Ai domiciliari l'imprenditore delle cliniche Angelucci truffa le ASL, è falso e l'accusa. Con questa legge elettorale al momento fuori da Strasburgo tutti i partiti minori salvo Italia dei Valori e UDC, lo dicono i sondaggisti a Radio 24. Si scava nella vita e nelle attività del consigliere comunale ucciso nel Napoletano, nessuna traccia dei killer. Il governo esamina incentivi anche per gli elettrodomestici, lo annuncia Berlusconi. Ancora nessun accordo fra gli operai inglesi e la IREM, fra poco l'intervista al capocantiere di Grimsby. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo con le notizie di cronaca giudiziaria, ma che sfiorano anche la politica, che sono arrivate in queste ore. Sì, lui è considerato uno dei più importanti imprenditori della sanità. Stiamo parlando di Giampaolo Angelucci, che da questa mattina è agli arresti domiciliari per un'inchiesta su alcune cliniche di Roma. Ci spiega tutti i dettagli Andrea Viali. Sì, falso e truffa ai danni delle ASL, sono queste le ipotesi di reato su cui indagano i magistrati della Procura di Velletri, che hanno disposto gli arresti domiciliari per Giampaolo Angelucci, imprenditore 38enne, erede di una famiglia proprietaria di un piccolo impero nel mondo della sanità nel Lazio, ma non solo, un impero fatto di diverse cliniche, molte delle quali sono anche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Anche per il padre Antonio Angelucci, che è un senatore del Popolo della Libertà, è stata chiesta l'autorizzazione a procedere per mettere anche lui ai domiciliari. L'inchiesta della Procura di Velletri, a quanto si apprende, ruota attorno a un giro di falsi rimborsi che sarebbero stati ottenuti dalle cliniche del gruppo, e viene indagato in tutto 13 persone, fra le quali appunto anche dirigenti e funzionari di ASL del Lazio. I carabinieri in queste ore, da stamattina, stanno eseguendo una serie di perquisizioni nelle sedi delle società degli Angelucci, che in mattinata hanno diffuso un comunicato nel quale si dicono estranei ai fatti che gli vengono contestati e confidano di poter dimostrare a breve l'infondatezza delle accuse che gli sono rivolte. Ricordo infine che la famiglia Angelucci è attiva nel mondo della sanità, ma anche in quello dell'editoria, grazie alla proprietà di due quotidiani, Libero e Riformista. In passato aveva avuto anche una partecipazione. Grazie Andrea Viali per questi aggiornamenti, e rimaniamo sul filo tra giustizia e politica con le parole di Antonio Di Pietro. Sì, Antonio Di Pietro, che ha fatto un appello al presidente Napolitano affinché non firmi la legge sulle intercettazioni quando questa arriverà naturalmente sul tavolo del Quirinale. Elisabetta Fiorito. Sì, diciamo subito che l'appello di Antonio Di Pietro non è nuovo, il capo dello Stato non deve firmare la legge sulle intercettazioni, è un appello già fatto da Di Pietro al Quirinale. Il leader dell'Italia dei Valori chiede di valutare bene se il provvedimento è veramente costituzionale. La novità è che adesso Di Pietro è indagato per le critiche rivolte al capo dello Stato Giorgio Napolitano su silenzi ed omertà. Tutti in Parlamento firmeranno come soldatini, dice Di Pietro. Allora il Presidente della Repubblica si chieda se questa legge sia davvero costituzionale o se umilia la funzione della giustizia costituzionalmente garantita, uguale per tutti. Poi procede Di Pietro. Silvio Berlusconi fa politica per fare leggi per evitare di essere processato. Lo ha fatto con amnistie, indulti e da ultimo con il lodo Alfano. La questione morale sta dentro il DNA di Berlusconi. Subito la replica di Daniele Capezzone, portavoce PDL. Di Pietro vuole intimidire il Quirinale. E per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. E grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. Altra questione politica al centro dell'attenzione: l'approvazione della riforma della legge elettorale europea da parte della Camera, anche con polemiche interne all'interno del Partito Democratico. Di poco fa è la dichiarazione di Massimo D'Alema, che torna a dirsi convinto che ci sarebbe voluto il modello tedesco con uno sbarramento al 3%, quando il resto del PD invece ha votato a favore di uno sbarramento del 4%. Il pomo della discordia è appunto questo sbarramento al 4%, che ha suscitato le ire dei piccoli partiti che sarebbero così esclusi dal Parlamento europeo. Chi è dentro e chi è fuori? Sentiamo. Sul risultato elettorale dei partiti alle europee con lo sbarramento, i sondaggi danno indicazioni abbastanza chiare. Roberto Weber, presidente di SVG. Stanno sopra certamente Di Pietro, PDL, PD, Lega Nord, ci sta sopra l'UDC, non di moltissimo, ma l'UDC è molto difficile da stimare. E devo dire che le altre formazioni, andando in ordine sparso, stanno tutte sotto. Da sinistra a destra rischiano quindi l'estinzione tanti partiti dalle radici nobili, ma dal peso elettorale relativo. Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, Movimento per la Sinistra, Sinistra Democratica, Verdi, Socialisti, Radicali, Partito Repubblicano, DC per le Autonomie, DC di Pizza, Movimento per le Autonomie, Partito Liberale, la Destra, Azione Sociale, Forza Nuova, ma anche i movimenti linguistici come l'Union Valdoten o la SVP. Tuttavia è presto per dire se e come i piccoli saranno costretti a scegliere se aggregarsi o sparire. La partita, dice Renato Mannheimer, è tutta da giocare. Tutto dipende dalla campagna elettorale, quindi ciascun partito può recuperare le stesse forze Italia dei Valori, UDC, Lega, che a questo punto appaiono sicuri, potrebbero non esserlo più. Il voto per gli europei per di più è un voto abbastanza in libertà. Secondo Roberto Weber, anche l'aggregazione delle forze di sinistra potrebbe non essere premiante. Nell'ipotesi, invece, di un cartello che abbiamo misurato, di un cartello di forze di sinistra, riscendono subito e sfiorano il 4%. Adesso però bisognerà vedere come loro posizionano e motivano questa cosa qui. Al momento, conclude Weber, la scelta più vincente sembra presentarsi come coalizione di diverse identità piuttosto che tentare una unificazione posticcia. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ora passiamo a un'altra questione politica che sta facendo discutere, ossia l'emendamento della Lega al cosiddetto pacchetto sicurezza, che elimina l'obbligo per i medici di non denunciare i clandestini che si presentano in ospedale o in altre strutture per ricevere cure sanitarie. In altre parole, i medici avrebbero, se questo emendamento dovesse passare, la possibilità a loro discrezione di segnalare gli irregolari. L'emendamento sarà votato fra stasera e domani al Senato, mentre questa mattina la seduta è stata sospesa per mancanza di un numero legale. Il senatore leghista Fabio Rizzi, relatore dell'emendamento, intervenuto a 24 mattino al microfono di Alessandro Milan. Noi come Lega Nord riteniamo che sia un atto dovuto l'approvazione di un emendamento di questo genere nel momento in cui passa il concetto della clandestinità come reato. Quindi se le viene un immigrato irregolare al pronto soccorso, visto che lei ancora anche esercita, lei da oggi, o se passasse l'emendamento, non avrebbe problemi a denunciarlo laddove pensa che sia irregolare? Assolutamente nessunissimo tipo di problema, anche perché questo non va minimamente in contrasto con quella che è la funzione, la vocazione stessa del medico, che non è certo quello di ledere l'individuo ma di curarlo, perché non dimentichiamoci che prima di tutto il clandestino è un essere umano e ha diritto ad essere assistito, ad essere curato nel migliore dei modi. Diversamente però, usciamo un attimino dalla veste di medico, entriamo in quella di cittadino, dopo averlo curato, lo segnalo. Ovviamente ha commesso un reato e il mio senso civico mi impone di segnalarlo all'autorità giudiziaria. Adesso andiamo in Gran Bretagna, Simone, per la protesta dei lavoratori inglesi della raffineria Lindsay a Grimsby contro gli italiani della IREM, la società, lo ricordiamo, che si è aggiudicata l'appalto per la costruzione di un impianto. Gli inglesi in sciopero hanno respinto un compromesso che prevedeva l'assunzione di un certo numero di operai locali nel sito dove l'appalto è stato vinto dall'azienda italiana. Cristina Balottelli ha intervistato Daniele Gibilisco, capo cantiere della IREM e portavoce degli operai italiani. Noi abbiamo oggi chiesto notizie ufficiali alla Total, notizie stanno arrivando dai media inglesi completamente false, pare che secondo loro si sia raggiunto un accordo che non è vero, non è assolutamente vero e non solo, ma stanno cominciando a circolare delle dichiarazioni completamente diffamanti nei nostri confronti. Del tipo? Del tipo che la prima dichiarazione che hanno fatto è quella di cominciare a coinvolgere, ad assumere per il nostro progetto di saldatori inglesi per sostituire i nostri saldatori italiani che non sono risultati qualificati. Questa informazione è assolutamente falsa ed è diffamante nei nostri confronti. Noi abbiamo solo personale altamente qualificato, certificato, che è già stato sottoposto all'approvazione del cliente ed è idoneo a lavorare. Il giochetto però comincia a farsi pesante, perché noi non possiamo accettare che determinate cose vengano dette contro di noi. Se loro sono capaci di chiudere la trattativa, devono avere le loro capacità per farlo, non diffamando o dichiarando del falso nei nostri confronti. Certo, perché questo non fa che peggiorare il clima. Infatti, Stamattina circolavano dei volantini ancora davanti alla raffineria che ci chiedevano di partecipare al loro sciopero. Noi non vediamo il motivo per dover scioperare. Noi siamo lontani dal lavoro, non abbiamo non solo nessuna intenzione di scioperare, ma da questo momento in poi cominciamo a mantenere ancora più le distanze, perché il nostro atteggiamento credo che sia stato anche un po' troppo soft nei confronti di queste persone. E ci sono un paio di notizie battute poco fa dalle agenzie. La prima: resta in carcere Samuele, il minorenne accusato di aver aggredito e bruciato insieme ad altri due giovani, in questo caso maggiorenni, un immigrato indiano alla stazione di Nettuno. La decisione è stata presa questa mattina dalla GIP del Tribunale dei Minorenni di Roma. E l'altra notizia invece arriva dal Brasile e riguarda le sorti di Cesare Battisti, l'ex terrorista e pluriomicida del quale l'Italia ha chiesto l'estradizione. Bene, Gilmar Mendes, presidente del Supremo Tribunale Federale, la Corte Costituzionale brasiliana che deve decidere, ha ammesso la possibilità dell'estradizione di Battisti ed ha annunciato appunto che il caso sarà giudicato dal Tribunale in marzo. Passiamo ora a una buona notizia che arriva dal mondo dello sci, perché questa mattina c'è stata un'importante vittoria italiana nel supergigante mondiale della Val d'Isère. Ce ne parla Dario Puppo. Sì, è arrivata la prima medaglia a questi campionati del mondo della Val d'Isère con l'argento ottenuto da Peter Phil. Aveva avuto molti problemi legati ai materiali nelle ultime due stagioni, in particolare quella precedente, invece con la nuova marca è riuscito a vincere la sua prima gara di Coppa del Mondo e adesso vincere anche la prima medaglia. È arrivato a 99 centesimi di ritardo da un imprendibile Didier Couche, che è un altro che è stato spesso secondo, battuto. Questa volta ottiene il primo titolo in carriera lo svizzero e è stato veramente dominante, mentre al terzo posto Axel Lundsvindal per pochi centesimi di ritardo da Phil 3, ma la cosa più importante è che abbiamo messo tutti e cinque gli azzurri in gara nelle prime 17 posizioni e Innerhofer, Christoph Innerhofer, quarto, ha sfiorato anche lui la medaglia per 5 centesimi, battuto dal norvegese Svindal. Quindi un buon avvio per questi mondiali in vista di gare in cui l'Italia può ancora portarne a casa delle altre. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Antonio Di Pietro chiede al Presidente della Repubblica di non firmare la legge sulle intercettazioni. Si chieda se sia davvero costituzionale, dice l'ex PM che da ieri è indagato per vilipendio dopo le frasi su Napolitano pronunciate durante una manifestazione. È stato arrestato ed è domiciliare l'imprenditore delle cliniche Giampaolo Angelucci. La procura di Velletri lo accusa di truffa e falso ai danni delle ASL. I magistrati hanno chiesto anche l'autorizzazione a procedere per il padre, Antonio Angelucci, senatore del Popolo delle Libertà. Cesare Battisti alla fine potrebbe essere estradato, lo dice il presidente della Corte Costituzionale brasiliana. La decisione arriverà in marzo. La Fiat ha deciso il ricorso alla cassa integrazione per 5.000 impiegati del gruppo nelle prime due settimane di marzo. Ed è di ieri la notizia della chiusura della fabbrica Indesit, sempre a Torino. Il governo intanto annuncia nuovi interventi da varare venerdì. Sentiamo quali sono i settori dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Settore delle auto, della componentistica, che sono in crisi, ma anche il settore del bianco, là dove tuttavia queste imprese producono oggetti elettrodomestici che possono andare nella direzione di un minor consumo di energia. E la crisi morde ancora il Giappone. Panasonic ha annunciato un taglio di 15.000 posti di lavoro e la chiusura di 27 fabbriche, mentre Mitsubishi annuncia il ritiro dalla Parigi-Dakar. Caccia ai killer che hanno ucciso a Castellammare di Stabia il consigliere comunale del PD Gino Tommasino, un agguato con modalità camorristiche. A terra la polizia ha raccolto 15 bossoli. Tommasino era in auto con il figlio di 13 anni che è rimasto illeso. Oggi pomeriggio a Castellammare di Stabia, consiglio comunale in seduta straordinaria. E questa mattina è scattato un blitz nel Casertano, arrestati 12 affiliati al clan dei Casalesi, accusati di aver usato minacce per truccare gare d'appalto per la raccolta dei rifiuti. Tra gli arrestati l'imprenditore Sergio Orsi, il cui fratello Michele, collaboratore di giustizia, venne ucciso in un agguato il 1 giugno 2008. Non c'è accordo fra la Totale e i lavoratori inglesi che stanno protestando contro gli italiani che hanno ricevuto un appalto per costruire un impianto in una raffineria in Gran Bretagna. La notizia è confermata anche dalla capocantiere dell'azienda italiana Irem, Daniele Gibilisco. Noi abbiamo oggi chiesto notizie ufficiali alla Total. Notizie stanno arrivando dai media inglesi completamente false. Pare che secondo loro si sia raggiunto un accordo, che non è vero. Non è assolutamente vero e non solo, ma stanno stanno cominciando a circolare delle dichiarazioni completamente diffamanti nei nostri confronti. L'italiano Peter Phil ha conquistato la medaglia d'argento nel super gigante mondiale della Val d'Isère, parliamo di sci naturalmente. L'oro è stato vinto dallo svizzero Didier Kusch e il bronzo dal norvegese Axel Svindal. Parliamo ora dell'omicidio della consigliere comunale di Castellammare di Stabia, Gino Tommasino. Si è parlato di un agguato camorristico, anche se in realtà gli inquirenti stanno seguendo ancora tutte le piste. Un'esecuzione di stampo camorristico, nell'incertezza di un perché per quegli spari in pieno centro davanti al figlio, si ripercorrono le ultime battaglie di Gino Tommasino, l'imprenditore prestato alla politica dopo il passo indietro del fratello medico, dato come possibile candidato a sindaco, e porta il nome del tunnel di Pozzano a Castellammare di Stabia, l'ultimo impegno dell'ex segretario della Margherita. Lui, Tommasino, aveva sollevato dubbi e critiche ai lavori di costruzione di una galleria pensata per alleggerire il traffico della città, ma in una zona ad ampio rischio idrogeologico, scriveva in uno dei suoi messaggi per un'associazione ambientalista, Itaca, di cui si interessava. Il suo nome era finito anche in un'inchiesta del PM Potentino Woodcock sullo smaltimento dei rifiuti, e si ricordano anche i suoi interessi in un appalto per le terme stabiane come in una società di assicurazioni. Ma in questo momento le strade si percorrono tutte per cercare di dare un volto a quei sicari dal viso coperto che dalla moto hanno sparato 13 colpi contro l'auto del consigliere del PD, lasciando un ragazzino solo davanti al corpo del padre e precipitando la città in una nuova emergenza di camorra. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. E sempre la nostra Raffaella Calandra ha intervistato Pasquale Sommese, consigliere regionale del Partito Democratico, molto vicino alla famiglia di Tommasino. Gino è subentrato in questo solo adesso, che fratello da varie legislature era consigliere. Ieri è stato assessore con la giunta di Ersilio Salvata all'urbanistica, sempre Giovanni, era anche da più parte invitato a presentarsi a sindaco. Giovanni, immagino, non era politico. Quando il fratello poi ha deciso di non scendere in campo è stato inserito il fratello, che non è politico, si è trovato a fare il consigliere comunale, ma è il fratello Giovanni, insomma, che è l'anima un poco politica della famiglia, il medico. Sì, quando è stata l'ultima volta che vi siete visti o sentiti con Gino? Lunedì dovevamo chiudere il congresso con l'elezione del segretario e del direttivo, con tutti gli organi di Castellammare stavamo organizzando per l'elezione di lunedì con Morando l'atto conclusivo del congresso. Che idea si è fatta di questo delitto? Lui aveva subito anni fa anche un atto intimidatorio al suo negozio. Proprio ieri sera sono stato anche là, sono veramente rimasto male proprio nel vedere quel ragazzino di 13 anni che ha dovuto assistere a immagini che non dimenticherà più nella sua vita. Il sindaco di Castellammare ha rivolto un invito a tutti a collaborare, perché sembrano le tradizionali modalità di camorristiche. Tutti daremo il nostro contributo, ma conosco questa famiglia, non riesco a spiegarmi come sia potuta avvenire una cosa del genere. E il fratello che dice? Stava scosso molto, e non si riesce a dare una ragione. E restando in Campania, parlando sempre di criminalità, questa mattina c'è stata un'operazione anticamorra dei carabinieri a Caserta, nel settore dell'ecomafia. Con metodi violenti avrebbero truccato gare d'appalto per la costituzione di un consorzio specializzato nella raccolta dei rifiuti nel casertano. 12 presunti appartenenti al clan dei Casalesi sono stati arrestati all'alba dai carabinieri. Si tratta di esponenti del gruppo Bidognetti. Altri 3 arresti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza. Tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare anche il boss Francesco Bidognetti, da anni detenuto, e l'imprenditore Sergio Orsi, fratello del collaboratore di giustizia Michele, ucciso a Casal di Principe a giugno dello scorso anno. Quest'ultimo sarebbe stato assassinato per le sue dichiarazioni sull'intreccio tra camorra e politica. Contestualmente all'esecuzione degli ordini di custodia cautelare, la DIA di Napoli ha sequestrato beni trovati nella disponibilità di alcuni degli arrestati. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E adesso ci spostiamo in un'altra parte d'Italia, andiamo a Torino perché martedì prossimo ricorre un anniversario particolare, sono i 3 anni dall'inaugurazione delle Olimpiadi invernali. Ma che fine faranno gli impianti olimpici che hanno anche in parte modificato il volto della città? Sentite un po'. Giorni di prove nella pista di bob di Cesana Pariol. Da dopodomani si disputano i campionati italiani juniores di bob e skeleton e in pista ci sono gli azzurrini destinati a raccogliere l'eredità di Armin Zögeler che qui 3 anni fa conquistava il suo secondo oro olimpico. Dei giochi oggi resta un'eredità sportiva imponente ed è qui che oggi Torino 2006 si gioca forse la gara più importante, quella che mette in palio in un colpo solo 10 strutture, un pacchetto di impianti che comprende il palasport e il palavela, i trampolini del salto di pragelato, la pista di bob e quella di biathlon, opere costate centinaia di milioni di euro di soldi pubblici e che pubbliche resteranno. Gli enti locali infatti cercano un socio privato pronto e capace non di comprarle ma di gestirle per 30 anni. Per avere le strutture a disposizione per 30 anni servono 2 milioni e 100 mila euro, base d'asta per la quota di maggioranza della Parco Olimpico SRL, ma chi vorrà farsi carico dell'eredità a 5 cerchi di milioni dovrà sborsarne almeno altri 65. Una parte per coprire le perdite di bilancio, peraltro previste, della stessa Parco Olimpico e oltre 60 per gli interventi, grandi e piccoli, che a soli 3 anni dai giochi bisogna già realizzare sui siti, alcuni dei quali, incredibile ma vero, aspettano ancora l'agibilità definitiva. Paolo Bellino, direttore del Torino Olympic Park. Abbiamo verificato anche la necessità di cercare sul mercato un soggetto nazionale o internazionale forte che ulteriormente rafforzi la Parco Olimpico e che ulteriormente possa rafforzare questa società sul mercato nazionale ed internazionale. In questi 3 anni gli impianti hanno funzionato e come? 1407 in totale i giorni di apertura solo nel 2008 e 277.500 gli spettatori paganti. Marco Ferrando, GR24, Sole 24 Ore, Torino. Tutti i dettagli oggi sul Sole 24 Ore Nord-Ovest, ma noi continuiamo a parlare di sport, Alessandra. Sì, continuiamo a parlare di sport perché sabato, come ormai stiamo ricordando in extra large tutti i giorni, inizia il 6 Nazioni di rugby. Prosegue quindi il nostro viaggio per conoscere quali sono le avversarie dell'Italia. Giacomo Bagnasco, dove andiamo oggi? Andiamo a Dublino per parlare dell'Irlanda che sarà in Italia domenica 15 febbraio. Questa squadra non vince il 6 Nazioni dal 1985, è una squadra che dal 2000 a oggi per 5 volte è riuscita ad aggiudicarsi 4 partite su 5 ma non ha mai vinto il torneo. Quindi è una squadra che può avere un complesso a questo punto, per questo si affida a un allenatore vincente nuovo come Declan Kidney che ha vinto 2 Heineken Cup, vale a dire 2 Champions League con la selezione irlandese del Munster, è una squadra che si è rinnovata abbastanza sia in mediana sia nei tre quarti e potrebbe anche essere protagonista. Di sicuro è molto molto importante la prima partita in casa con la Francia, gli irlandesi quest'anno giocano in casa con Francia e Inghilterra, questo di solito dà loro un vantaggio non da poco. Ricordiamo tra tutti un giocatore, Brian O'Driscoll, il capitano, è anche considerato, quando è in forma, il miglior trequarti centro del mondo. Come al solito, Giacomo, ti chiediamo se ci sono dei punti deboli che potremmo sfruttare, che l'Italia potrebbe sfruttare con l'Irlanda. Io penso che dobbiamo partire dal punteggio dell'anno scorso. L'Italia a Dublino, a Croke Park, questo stadio magnifico che per anni e anni è stato vietato alle discipline non irlandesi, ha perso 16-11, ha messo paura agli irlandesi, grazie soprattutto alla pressione esercitata su questa squadra che con alcuni elementi della mischia comincia a denunciare un'età un po' avanzata. Su questo possiamo contare. Certamente l'Italia non ha mai battuto l'Irlanda nell'ambito del 6 Nazioni e anche questa volta si troverà di fronte a un impegno molto difficile. Grazie allora Giacomo Bagnasco, ci sentiremo naturalmente con te anche domani per conoscere un'altra avversaria di questa nostra Italia del rugby. GR Extra Large, ecco le principali notizie della giornata. Di Pietro chiede al Presidente della Repubblica di non firmare la legge sulle intercettazioni. Si chieda se sia davvero costituzionale, dice l'ex PM, che da ieri è indagato per vilipendio dopo le frasi su Napolitano pronunciate durante una manifestazione. È stato arrestato questa mattina ai domiciliari l'imprenditore delle cliniche Giampaolo Angelucci. La Procura di Velletri lo accusa di truffa e falso ai danni delle ASL. I magistrati hanno chiesto anche l'autorizzazione a procedere per il padre, Antonio Angelucci, senatore del Popolo delle Libertà. Non è detta l'ultima l'ultima parola per l'ex terrorista Cesare Battisti, che potrebbe essere estradato, lo dice il presidente della Corte Costituzionale brasiliana. La decisione arriverà in marzo. La Fiat ha deciso il ricorso alla cassa integrazione per 5.000 impiegati della gruppo nelle prime due settimane di marzo, ed è di ieri la notizia della chiusura della fabbrica della Indesit, sempre a Torino. Il governo intanto annuncia nuovi interventi da varare venerdì. Sentiamo quali da Silvio Berlusconi. Settore delle auto, della componentistica, che sono in crisi, ma anche il settore del bianco, là dove tuttavia queste imprese producano oggetti elettrodomestici che possono andare nella direzione di un minor consumo di energia. E la crisi morde ancora il Giappone. Panasonic ha annunciato un taglio di 15.000 posti di lavoro e la chiusura di 27 fabbriche, mentre Mitsubishi annuncia il ritiro dalla Parigi-Dakar. Caccia ai killer che hanno ucciso a Castellammare di Stabia il consigliere comunale del PD Gino Tommasino, un agguato con modalità camorristiche. Tommasino era in auto con il figlio di 13 anni che è rimasto illeso. Oggi pomeriggio a Castellammare di Stabia, consiglio comunale in seduta straordinaria. E questa mattina è scattato un blitz nel Casertano, arrestati 12 affiliati al clan dei Casalesi, accusati di aver usato minacce per truccare gare d'appalto per la raccolta dei rifiuti. Non c'è ancora accordo fra la Totale e gli operai inglesi, che protestano contro l'assegnazione di un appalto alla Irem di Siracusa. L'accordo prevedeva l'assunzione di un certo numero di operai inglesi. Sentiamo Daniele Gibilisco, capocantiere della Irem e portavoce degli operai italiani. Noi abbiamo oggi chiesto notizie ufficiali alla Total. Notizie stanno arrivando dai media inglesi completamente false. Pare che secondo loro si sia raggiunto un accordo, che non è vero. Non è assolutamente vero, e non solo, ma stanno cominciando a circolare delle dichiarazioni completamente diffamanti nei nostri confronti. L'azzurro Peter Fila ha conquistato la medaglia d'argento nel supergigante mondiale della Val d'Isère. L'oro è stato vinto dallo svizzero Didier Kusch e il bronzo dal norvegese Axel Svindal. Andiamo ora a Gaza con il diario che quotidianamente ci sta facendo Fausto Biloslava. Oggi la situazione sembra tranquilla, ma qual è il quadro che ti trovi davanti, Fausto? La famiglia Abdrabo ha perso due figlie, Saad e Amal, di 7 e 3 anni, uccise dagli israeliani nonostante stavano uscendo dalla loro casa con una bandiera bianca. La loro tragica sfortuna era vivere a 2 chilometri da Israele, di fronte alla città di Sderot, colpita dai razzi palestinesi. Ma questa è solo una faccia della medaglia nella sporca guerra di Gaza. Un farmacista palestinese mi ha raccontato che i miliziani di Hamas hanno piazzato una trappola esplosiva in strada e poi si sono nascosti al terzo piano di un palazzo vicino, sopra il suo appartamento, per farla detonare al passaggio del primo carro armato israeliano. Noi siamo civili, non abbiamo avuto altra scelta che fuggire e abbandonare la nostra casa, mi ha spiegato il farmacista, pregandomi di non fare il suo nome per timore di rappresaglie. Rappresaglie che hanno colpito chiunque critichi Hamas, a cominciare dai simpatizzanti di Fatah, il partito del presidente palestinese. Almeno 28 persone sono state sommariamente giustiziate con l'accusa di collaborare con gli israeliani, ma fra di loro c'era anche un insegnante elementare che non ha mai imbracciato un'arma. Altre 150 circa sono state sequestrate, torturate o gambizzate perché alzavano la voce contro Hamas. E grazie Fausto, ci risentiamo naturalmente domani per questo tuo diario da Gaza. Noi ci spostiamo, restando all'estero, in Pakistan. Sì, perché il Pentagono avrebbe raccomandato al presidente Obama di cambiare strategia in Afghanistan. Più militari per dare la caccia ai talebani fino appunto in Pakistan e meno piani di ricostruzione. La notizia arriva da un sito web americano, The Politico. Sarebbe un ritorno al passato pericoloso, commenta Elisa Giunchi, docente di storia e di istituzioni dei paesi islamici all'Università di Milano. L'intervista è di Laura Bettini. Dinanzi al fallimento delle operazioni militari in Afghanistan, c'è stato un ripensamento anche da parte dei vertici del Pentagono, e da più parti si è detto è necessario avere una visione più ampia e agire sulle cause di scontento che fanno sì che parte della popolazione presti il proprio sostegno ai talebani, a loro volta legata alla rete qaedista. E quindi ho l'impressione che questo più che altro sia un passo indietro, non rispetto alla politica che era stata di Bush, ma rispetto ad alcuni ripensamenti che si sono fatti sentire negli anni scorsi all'interno soprattutto del Pentagono. No, del resto Obama stesso ha detto sempre chiaramente: noi abbiamo uno scopo principale, fermare Al-Qaeda. Ed è questa una strategia che è stata di Bush e che Obama ha reiterato più volte in campagna elettorale. Anche l'idea di perseguire Al-Qaeda in territorio pakistano non è una novità, perché sotto ancora nel periodo finale dell'amministrazione Bush, vi erano stati diversi, alcuni dicono 30 addirittura nel 2008, attacchi con aerei americani in territorio pakistano, e lo stesso Obama aveva detto quando era in campagna elettorale che era favorevole a azioni di questo tipo, azioni che chiaramente sono controproducenti e minano la credibilità e l'autorevolezza del governo pakistano in un momento in cui i sentimenti di anti-americanismo sono molto già sentiti. What is alarming right now is how fast the economy has been deteriorating. Quella che state sentendo è la voce di Barack Obama durante un'intervista rilasciata ad alcune televisioni americane. Ha parlato naturalmente anche di questioni di politica estera, ma il presidente degli Stati Uniti si è concentrato soprattutto sull'economia, dicendo che la cosa allarmante in questo momento è la rapidità con cui l'economia si sta deteriorando. Non ci dormo la notte, ha detto Obama, perché abbiamo una serie di problemi e non abbiamo una soluzione magica per risolverli. Ma Obama ha anche affrontato la spinosa questione di Tom Daschle, che ieri ha rinunciato al Ministero della Sanità per guai con il fisco. Per Barack Obama non c'erano dubbi, doveva dare una lezione di stile sia agli elettori che all'opposizione, e dunque ha accettato, e abbiamo appreso anche incoraggiato, le dimissioni di Tom Daschle, suo favorito, uno dei grandi del Partito Democratico, colpevole di non aver pagato in passato certe tasse o comunque di averle pagate poi troppo tardi. In un'intervista concessa ieri sera alle reti televisive americane, il presidente ha detto di aver sbagliato, di non aver fatto un processo di controllo, di verifica delle credenziali del suo candidato, come aveva promesso, molto molto dettagliato, e ha detto che era inevitabile che si arrivasse a questa conclusione perché non si può dare un messaggio, ha sottolineato alla gente, che ci siano due misure diverse per il cittadino comune e per coloro che guidano il paese. Obama è riuscito a recuperare sul fronte dell'immagine, a questo punto si attende la nuova scelta, apertura anche ai repubblicani con la nomina di Jude Gregg alla carica di segretario al commercio. Al suo posto il New Hampshire nominerà, questa è la promessa, un altro senatore repubblicano per non cambiare gli equilibri politici. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. Poco fa parlavamo dell'opportunità per Obama, secondo quanto gli suggeriscono alcuni del Pentagono, di cambiare strategia in Afghanistan e anche in Pakistan. E a proposito di Afghanistan, Giulia Crivelli, c'è una notizia che è riportata da un giornale tedesco. Sì, sulla Süddeutsche Zeitung c'è questa bellissima fotonotizia, loro ormai in prima pagina fanno queste fotonotizie un po' sganciate dal contesto magari di altre notizie, è un carretto trainato da un cavallo, noi lo vediamo da dietro, ci sono tre donne avvolte in un burka, spunta un pezzettino della mano di una di queste tre donne e nient'altro. Il titolo è Di Burka Bleibt, quindi il burka resta, e l'approfondimento è appunto su quanto, o meglio quanto poco, sono cambiate le condizioni delle donne da quando sono stati cacciati i talebani, o almeno da Kabul, perché poi sul resto del paese non è assolutamente chiaro chi comandi. Questo scrive la Süddeutsche Zeitung. Giulia, c'è un altro tema. Abbiamo parlato degli operai italiani in questa edizione di GR Extra Large, delle proteste degli operai inglesi per la vicenda della Irema Grimsby, però si parla anche di un altro tipo di lavoratori in Inghilterra. Sì, a forza di slogan abbiamo visto sui cartelli British Jobs or British Workers, e adesso, scrive l'Independent, è British Jobs for British Graduates, cioè quindi lavori britannici per laureati britannici. Come sappiamo, l'Inghilterra è stata la Gran Bretagna è stata la meta preferita soprattutto da quegli immigrati dall'India o da altri paesi dove ci sono tantissime università, politecnici, quindi laureati di altissimo livello che cercavano lavoro per l'appunto in Gran Bretagna per un fatto anche di assenza di barriera linguistica. E però adesso che scarseggiano tutti i tipi di lavoro, compresi quelli per i laureati in informatica, in ingegneria, comincia a esserci questo allarme di restringere il numero di permessi di soggiorno per gli studenti laureati che vengono dall'estero. In Italia i possibili aiuti al settore dell'auto potrebbero essere varati col Consiglio dei Ministri di venerdì, ma di aiuti al settore dell'auto si parla anche in Francia. insomma ognuno cerca un po' di trovare la sua soluzione, la quadra del cerchio. E forse è vero, nell'auto c'è questo eterno ritorno, la storia della Mini ci insegna che a volte gli antichi modelli, un po' magari rieditati, hanno un grande successo, la Citroën sta pensando di reintrodurre dopo anni il famoso squalo, la Citroën DS, che aveva avuto tanto successo, poi è sembrata così aver fatto il suo tempo, invece adesso magari con delle migliorie tecnologico di design verrà riportata sul mercato. Giulia, proprio uguale non potranno non farla, insomma, qualche miglioria andrà fatta. Senti, a proposito dei francesi e a proposito di ritorni, che cosa ci puoi dire da Le Figaro? Una gloria francese, sulla prima pagina di Le Figaro una bellissima Sophie Marceau, non so quanto risalga la foto, sembra ancora adesso una ragazzina. Ai tempi delle mele. Il famoso film che da noi è stato tradotto con questo strano titolo, in realtà in francese era La Boom, quindi lei appunto viene ricordata come la protagonista 30 anni fa della Boom, e adesso è protagonista ma nel ruolo di una mamma, e proprio di una mamma di una sedicenne, di un altro film che si chiama La LOL e che probabilmente bisserà il successo del famoso Tempo delle Mele. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Antonio Di Pietro chiede al Presidente della Repubblica di non firmare la legge sulle intercettazioni. Si chieda se questa legge sia davvero costituzionale, dice l'ex PM che da ieri è indagato per vilipendio dopo le frasi su Napolitano pronunciate durante una manifestazione. È stato arrestato questa mattina ed è ai domiciliari l'imprenditore delle cliniche Giampaolo Angelucci. La Procura di Velletri lo accusa di truffa e falso ai danni delle ASL. I magistrati hanno chiesto anche l'autorizzazione a procedere per il padre, Antonio Angelucci, senatore del Popolo delle Libertà. L'ex terrorista e pluriomicida Cesare Battisti alla fine potrebbe essere estradato, lo dice il presidente della Corte Costituzionale brasiliana. La decisione arriverà in marzo. La Fiat ha deciso il ricorso alla cassa integrazione per 5.000 impiegati del gruppo nelle prime due settimane di marzo, ed è di ieri la notizia della chiusura della fabbrica della Indesit a Torino. Il governo intanto annuncia nuovi interventi da varare venerdì, e fra poco sentiremo appunto la voce del presidente Berlusconi. E la crisi morde ancora il Giappone. Panasonic ha annunciato un taglio di 15.000 posti di lavoro e la chiusura di 27 fabbriche, mentre Mitsubishi annuncia il ritiro dalla Parigi-Dakar. Caccia ai killer che hanno ucciso a Castellammare di Stabia ieri il consigliere comunale del PD Gino Tommasino. Un agguato con modalità camorristiche. A terra la polizia ha raccolto 15 bossoli. Tommasino era in auto con il figlio di 13 anni che fortunatamente è rimasto illeso. Nel pomeriggio a Castellammare di Stabia consiglio comunale in seduta straordinaria. E questa mattina è scattato un blitz nel Casertano. Arrestati 12 affiliati al clan dei Casalesi, accusati di aver usato minacce per truccare gare d'appalto per la raccolta dei rifiuti. Tra gli arrestati l'imprenditore Sergio Orsi, il cui fratello Michele, collaboratore di giustizia, venne ucciso in un agguato camorristico il 1 giugno del 2008. Non c'è ancora accordo fra la Totale e gli operai inglesi che protestano contro l'assegnazione di un appalto alla Irem di Siracusa. L'accordo prevedeva l'assunzione di un certo numero di operai inglesi. Daniele Gibilisco, capocantiere della Irem e portavoce degli operai italiani. Noi abbiamo oggi chiesto notizie ufficiali alla Total. Notizie stanno arrivando dai media inglesi completamente false. Pare che secondo loro si è raggiunto un accordo, che non è vero, non è assolutamente vero, e non solo, ma stanno cominciando a circolare delle dichiarazioni completamente diffamanti nei nostri confronti. L'azzurro Peter Phil ha conquistato la medaglia d'argento nel super gigante mondiale della Val d'Isère. L'oro è stato vinto dallo svizzero Didier Kusch e il bronzo dal norvegese Axel Svindal. Allora, prima parlavamo anche con la nostra Giulia Crivelli delle intenzioni dei vari governi europei di venire incontro al settore dell'auto. Abbiamo sentito come ne parlavano oggi alcuni giornali francesi, ma la notizia riguarda ovviamente anche noi italiani. Sì, perché i partner europei, almeno quelli che hanno un'industria automobilistica forte, gli incentivi per il settore auto li hanno di fatto già varati, e c'è grande attesa per il Consiglio dei Ministri di venerdì, quello che dovrebbe varare aiuti per il settore auto, ma anche provvedimenti per il credito al consumo. Oggi è tornato a parlare di crisi economica il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Ebbene, sentiamo l'intervistato da Canale 5. 40 miliardi, che potranno diventare anche 80 miliardi considerando i fondi europei, regionali e governativi. A questo si aggiungono le misure che stiamo studiando e che io penso di poter concretamente mettere in provvedimenti nei prossimi giorni a sostegno di certi settori strategici della nostra economia, settore delle auto, della componentistica che sono in crisi, ma anche il settore del bianco, là dove tuttavia queste imprese producono oggetti elettrodomestici che possono andare nella direzione di un minor consumo di energia. E dopo la firma separata dell'accordo sul nuovo modello contrattuale non sottoscritto dalla CGIL, per i contratti dei lavoratori ci sarà un po' una giungla nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Questo almeno le parole dette questa mattina dal segretario generale della CGIL, Guglielmo Epifani. La CGIL non tornerà sui suoi passi e non siglerà l'accordo quadro sulla riforma del modello contrattuale raggiunto a fine gennaio dalle altre parti sociali con il governo. Anzi, andrà avanti con le proprie iniziative, lo ha detto il segretario generale della CGIL, Guglielmo Epifani, rispondendo in diretta alle domande degli ascoltatori sul sito del sindacato. Una spaccatura, a suo parere, determinata dal ruolo dell'esecutivo che porterà a una giungla. Il governo non ha giocato in termini trasparenti, il governo non è stato super partes o datore di lavoro, il governo ha attivamente giocato a forzare a una firma separata. Questo è il punto che non va bene di questo accordo. Ci sentiamo confortati da sapere che abbiamo milioni di persone che la pensano come noi e credo che abbiamo l'intelligenza e anche l'energia per fare una battaglia che non sarà breve, perché noi non firmeremo questo accordo, e che ci dovrà mettere in condizione un po' più in là di riconquistare un vero e proprio accordo contrattuale degno di questo nome. Epifani ha anche invitato il governo a sbloccare entro la settimana la situazione legata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e sulle proteste in Gran Bretagna contro i lavoratori italiani ha detto di capire le preoccupazioni inglesi, ma ha proseguito: la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea è un principio e va difeso. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E proprio a proposito dei lavoratori inglesi, nella prima parte di XL vi abbiamo fatto sentire la voce del capo cantiere che si trova a Grimsby. Ebbene, la trattativa però tra gli operai inglesi e la Total prosegue. Sì, prosegue, perché anche se non è stata raggiunta l'intesa appunto su questa prima proposta, cioè di assumere anche una parte di operai inglesi, Mario Saraceno, che è l'amministratore unico della IREM, ha confermato alla nostra Cristina Balotelli che comunque le trattative fra la Totale e i sindacati inglesi sono in corso e comunque auspica che il contratto con la Total non venga rescisso. Allora sentiamo Mario Saraceno. In verità questo incontro già è in corso da giorni, per cui diciamo oggi può essere un giorno buono, come no, è un incontro che sta durando già da più giorni. Quindi non è che oggi potrebbe essere il giorno della svolta? Il giorno può essere in qualunque momento, credo, sa, quando potrebbe essere in qualunque momento che possono trovare un'intesa. Quindi noi chiaramente siamo in attesa degli eventi perché abbiamo premura di tornare a lavorare. Qualcuno dei vostri rappresentanti partecipa a questo incontro? No, questo incontro ancora noi non siamo chiamati a partecipare. D'altronde il problema non è nostro. Se lo diventerà, saremo chiamati. Senta, c'è la possibilità che si rompa il contratto con la Total Jacobs? E nel caso, quali sarebbero le conseguenze per voi? Beh, guardi, al momento c'è un contratto e io voglio pensare e sperare che venga onorato. Se non saremo certo noi a romperlo, per cui se si dovesse arrivare a una rottura chiaramente avremo delle gravi ripercussioni. Chiudiamo con una storia di politica che entra sui campi di calcio, è quel che è successo in Turchia. E questa storia ce la racconta il nostro Adib Fateli. Segna un gol, corre verso il cerchio del campo e pianta la bandiera della Palestina. Il clamoroso gesto di solidarietà con la popolazione di Gaza è avvenuto ieri in una partita di calcio tra il Sivasspor e il Galatasaray, valida per la Coppa di Turchia. Dalle tribune qualcuno ha iniziato a scandire slogan contro Israele. A quel punto l'autore del gesto, rivolto verso gli spalti, ha portato il dito indice alla bocca come a voler invitare i tifosi a non infierire contro il suo compagno di squadra di nazionalità israeliana presente sul campo. Adil Fatahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchessi, con in regia Peter Bescapè. Come sempre, se volete scriverci, vi ricordiamo l'indirizzo extralarge@radio24.it, per riascoltare la puntata www.radio24.it. Il prossimo giornale radio è alle 15, noi ci ritroviamo domani alle 13. Adesso la linea va a Tempo di Sport. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.